L'ultima grande offensiva delle forze NATO nel sud dell'Afghanistan, l'operazione Mushtarak, ha fatto balzare all'onore delle cronache la località rurale di Marja, nella provincia di Helmand. Una distesa di campi di papaveri punteggiata da canali e cascine di argilla che, assieme ai vicini distretti agricoli di Ndali, Babaji e Garmsir, rappresenta la principale zona di produzione di oppio afghano, il tariak in lingua locale, da cui si ricava gran parte dell'eroina spacciata nei nostri paesi. Da anni le truppe alleate cercano di strappare ai talebani il controllo di questi strategici distretti. L'operazione Mushtarak dello scorso febbraio è stata solo l'ultimo clamoroso tentativo, dai risultati ancora incerti, dopo decine di operazioni minori condotte senza sosta, soprattutto dalle forze britanniche. Una sequela ininterrotta di bombardamenti, battaglie e rastrellamenti che non hanno scalfito il potere talebano, producendo però inaudite sofferenze alla locale popolazione civile. Gente semplice, povera ma fiera, che fino ai noti eventi di aprile affollava, ferita nel corpo e nello spirito, le corsie dell'ospedale di emergency a Lashkarga. I loro volti, le loro storie, raccontavano la stanchezza per una guerra che dal 2001 i soldati stranieri e i talebani continuano a combattere sulla loro pelle, quella di contadini, anziani, donne e bambini. I militari stranieri sono entrati di notte nelle nostre case, a Nadali, ferendo mio nipote. Poi si sono portati via tutto il nostro raccolto di oppio. Ora che non abbiamo più niente da vendere, con che soldi compriamo da mangiare ai nostri bambini? Ci devono dare un risarcimento, oppure ci devono offrire un'alternativa aiutandoci a coltivare altre cose. Queste terre sono aride e vanno bene solo per i papaveri. Cosa vogliono? Farci morire di fame? Era mezzanotte quando abbiamo sentito gli elicotteri che atterravano dentro il nostro villaggio a Babaji. I soldati stranieri sono piombati in casa con i cani, urlando, e ci hanno fatto uscire tutti fuori in cortile, anche le donne e i bambini. Per mezzo del loro interprete ci hanno detto che non dovevamo muoverci, altrimenti ci avrebbero sparato. Hanno perquisito tutte le case del villaggio in cerca di oppio e quando l'hanno trovato l'hanno caricato sugli elicotteri e sono ripartiti. Hanno cominciato a spararsi con i talebani e a bombardare le nostre case. È andata avanti così per 4 giorni. Alla fine era tutto distrutto e c'erano morti ovunque, a decine, tutti civili. Mai vista una cosa del genere. Nemmeno i russi facevano queste cose. Prima di andarsene si sono portati via tutto il nostro oppio appena raccolto. Noi contadini poveri non abbiamo soldi per corrompere la polizia, come invece fanno i coltivatori ricchi. Allora non sequestrano il raccolto e non distruggono le piantagioni. A Nadali, dalle mie parti, la polizia chiede $200 all'ettaro ai coltivatori di papaveri da oppio. Chi può pagare sta tranquillo. Tutti gli altri rischiano di vedersi il campo distrutto, il raccolto sequestrato. Secondo Asadullah Shirzad, da un anno comandante provinciale della polizia di Helmand, questi fenomeni di corruzione erano molto diffusi in passato, ma ora, a suo dire, le cose sono cambiate. Da quando qui comando io, questo grave problema è stato affrontato con fermezza e risolto. Abbiamo fatto pulizia. Ora nessuno dei miei uomini prende più tangenti. Tutti fanno il loro dovere con professionalità e i risultati si vedono. Quest'anno abbiamo sradicato 6.000 ettari di piantagioni di papaveri. Il miglior risultato l'abbiamo ottenuto nel distretto di Garmsir, che nei mesi scorsi è stato completamente bonificato e ora non produce più nemmeno un chilo di oppio. Ma come? La zona di Garmsir, appena occupata dai Marines americani, non era un inviolato feudo talebano dove per anni la polizia afghana non ha osato mettere piede? Mentre riflettiamo su questa incongruenza, il comandante Shirzad ci sorprende con altre affermazioni che mettono in forte dubbio la sua attendibilità. Nell'ultimo anno la sicurezza nella provincia di Helmand è migliorata a tal punto che i miei agenti, che prima potevano muoversi solo in elicottero, ora possono tranquillamente andare in giro in bicicletta. Da quando sono qua io, nemmeno un poliziotto è stato ucciso. In realtà non passa giorni in Helmand senza che qualche poliziotto perda la vita in un attentato o in un agguato dei talebani. Ma non ce la sentiamo di dare al comandante questa brutta notizia e decidiamo di rivolgerci più in alto, chiedendo udienza al governatore della provincia, Gulab Mangal. Quest'anno la produzione di oppio qui nel Mand è diminuita soprattutto grazie al nostro innovativo programma locale delle Food Zone, con il quale offriamo sementi alternative e sostegno alla vendita a tutti i contadini che smettono di coltivare oppio. Finora hanno aderito in 3.000. Parallelamente portiamo avanti senza sosta la lotta al narcotraffico. Nell'ultimo anno in questa sola provincia abbiamo sequestrato 65 tonnellate di oppio, morfina ed eroina. Abbiamo arrestato 92 narcotrafficanti e abbiamo distrutto 10 raffinerie dove l'oppio veniva trasformato in eroina. Secondo Abdallah Abdallah, principale sfidante di Karzai alle elezioni presidenziali di agosto, la strategia antidroga adottata finora è stato un fallimento. No, non ha funzionato. Ci sono stati dei successi relativi in alcune zone, ma nel complesso non ha funzionato. Bisogna concentrarci veramente sui contadini, fornendo loro colture alternative, e colpire i narcotrafficanti e coloro che con questi traffici si arricchiscono. Non è più un segreto che tra questi ci sono anche persone collegate con altissimi esponenti del governo. È proprio questo il nodo del problema, secondo Jean-Luc Lemayet, direttore in Afghanistan dell'UNODC, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine. Posso capire gli agenti semplici della polizia, che guadagnano poco, ma non quelli che siedono in Parlamento qui a Kabul, che non hanno problemi di soldi, ma ne vogliono sempre di più. Sono questi quelli a cui dobbiamo dare la caccia. Dobbiamo concentrarci su quelli che stanno in alto, dando il cattivo esempio agli altri, sui pesci grossi, non su quelli piccoli come i poveri agenti di polizia o i contadini. Il responsabile del programma antidroga delle Nazioni Unite in Afghanistan ci mostra i grafici che indicano la progressiva riduzione della produzione di oppio afghano dopo il record storico di 2 anni fa e il costante declino dei prezzi di mercato dell'oppio negli ultimi anni, spiegando che tutto ciò non è il frutto delle campagne antidroga del governo afghano o della comunità internazionale, ma è semplicemente il risultato delle leggi di mercato. Stiamo assistendo e continueremo ad assistere a un calo di produzione, perché si sta producendo più di quello che il mercato mondiale richiede. È logico che il mercato si corregga. La riduzione continuerà fino a quando si ristabilirà l'equilibrio tra domanda e offerta. So I would say no doubt to me that the major reduction is now a market correction. Non c'è dubbio, questa riduzione è prodotta da una correzione di mercato. Le nostre statistiche lo dimostrano chiaramente. For the farmer, 5 years ago, if he was to grow opium versus wheat, he would get 27 times as much. Per un contadino 5 anni fa coltivare oppio rendeva 27 volte tanto che coltivare grano. Oggi gli rende solo il doppio. Per questo molti contadini sono passati ad altre colture. La sovrapproduzione afghana di oppio rispetto alla domanda mondiale, verificatasi a partire dal 2004, ha provocato il crollo dei prezzi e quindi l'erosione dei margini di profitto di coltivatori e trafficanti, generando una frenata nella produzione di oppio, ma anche un deleterio effetto collaterale. Se molti contadini, infatti, hanno giudicato più conveniente e meno rischioso smettere di coltivare oppio, molti narcotrafficanti, in attesa che il calo di offerta faccia risalire i prezzi, hanno deciso di sfruttare la congiuntura iniziando a svendere le scorte di droga in eccesso sul mercato interno. Un nuovo fenomeno è il consumo di droga in Afghanistan. La droga a basso costo ha invaso il mercato locale con la conseguente esplosione del problema della tossicodipendenza. Basta pensare all'emergenza umanitaria creatasi all'ex centro culturale russo di Kabul. La situazione era drammatica. Tra quelle macerie si concentravano 1600 tossicodipendenti, di cui 650 che ci vivevano in pianta stabile e gli altri che ci andavano per drogarsi. Quando abbiamo scoperto questa situazione siamo intervenuti, prima portando assistenza sul posto e 2 mesi fa sgomberando l'area, sistemando la maggior parte dei tossicodipendenti in centri di disintossicazione gestiti dal Ministero della Salute afghano. Ovviamente nulla di paragonabile con gli standard europei, ne siamo ben lontani, soprattutto perché non ci sono fondi adeguati per affrontare questa emergenza. Un'emergenza pressante, perché se non interveniamo subito per arginare la tossicodipendenza, presto ci troveremo a fare i conti con la diffusione di malattie venere come l'HIV. Questo paese ha già abbastanza piaghe, l'ultima che gli auguro è l'HIV. Dobbiamo impedirlo. Oggi siamo ancora in tempo per farlo. Domani sarà troppo tardi.